benvenuto alle nostre ospiti, ad Alessandra Bonzi, nostra concittadina che però vive a Milano, ha una storia molto avventurosa, articolata, una professione affermata come giornalista, come scrittrice, e Alessandra Tortosa, che è la nostra programmista e regista della RAI di Bolzano, e abbiamo avuto anche l'occasione spesso di collaborare come biblioteca insieme ad Alessandra Tortosa, proprio sempre all'insegna della promozione della cultura, della lettura e anche della valorizzazione del territorio. Quindi questa sera mi fa particolarmente piacere avere una nostra concittadina che è tornata a trovarci e ci racconterà il suo ultimo libro, il suo ultimo successo, 9 giorni e mezzo, pubblicato da Garzanti, in compagnia appunto di Alessandra Tortosa, che è la nostra compagna di viaggio, ecco, che aiuta la biblioteca, crede appunto in questo modo di fare cultura, un modo di fare cultura però coinvolgente, e che prevede anche una co-creazione da parte del pubblico. Quest'autunno ne abbiamo in serbo delle belle, quindi seguiteci, perché adesso con questa sera finiamo veramente in bellezza l'attività di promozione e di incontro, diciamo così, serale con il pubblico. Avremo una pausa estiva dove però rimaniamo aperti, i nostri servizi vanno avanti, e siamo sempre aperti dalle 9 alle 18 tutti i giorni. In autunno invece riprenderemo con delle novità, e puntiamo e contiamo anche sul vostro aiuto e sulla vostra partecipazione. Bene, mi fermo qua, vi lascio la parola, ringrazio ancora tutti voi che siete qui questa sera e vi invitiamo poi a tornare a trovarci qui in biblioteca. Grazie e buona estate! Grazie. Grazie Valeria Trevisan per questa presentazione, sempre molto accalorata, sempre molto entusiasta, e quindi ci aiuta questo, Sandra. No, bellissimo poi lo spazio, cioè, quando mi ha mandato un messaggio via Messenger, mi ha beccata via Messenger e ho detto ma no, non puoi non venire, e quindi ho capito che è a polso la signora. Esatto. Allora, Sandra Bonzi, giornalista, scrittrice, ha collaborato con Repubblica, con Topolino. Sì, anche, sì, da Topolino a Repubblica, diciamo. Sì. In mezzo c'è stato Donna Moderna, L'Unità, un po' di... Sì, diciamo che sono due testate molto diverse tra di loro, ma una più divertente dell'altra. Quindi spazi anche, a proposito di divertente, 9 giorni e mezzo, il titolo già ricorda ovviamente un celebre film, tu bazzichi anche bene nel cinema, diciamo che ti piace, c'hai un po' lavorato, hai messo un po' il naso. Sì, allora, cinema mi è sempre piaciuto come utente e continua a piacermi tantissimo. Poi ci ho anche lavorato, poi nella mia vita, come tutti sanno, ci ho incrociato anche un uomo, per cui alla fine, come dire, lo frequento per piacere. Diciamo, certo. Si chiama Claudio Bisio, mio marito, e ovviamente la parte di cinema arriva anche da lui, chiaramente. 9 giorni e mezzo, è una giornalista ma si trova a fare la detective per caso e lì cominciano i guai. Giornalista come te, che però vive una situazione, possiamo anticipare questo, piuttosto drammatica. Cioè lei è convinta, dopo una vita che ha dedicato il suo tempo, la sua passione, la sua energia a fare bene il suo lavoro, a lasciarsi anche coinvolgere dai fatti, appunto da rimanere in redazione, magari quasi dimenticarsi i figli, eccetera, convinta di finalmente avere il giusto riconoscimento di carriera, invece si trova davanti una porta chiusa. Sì, beh, è una cosa che magari in modi diversi le donne hanno sperimentato. Diciamo che siccome volevo raccontare una donna ponendola in un momento difficile della sua vita, comunque particolare, e volevo proprio toglierle tutto, metterla veramente tanto in difficoltà, farla collocarla nell'ambiente giornalistico mi aiutava, perché quello che è successo negli ultimi anni nelle redazioni è proprio questo, cioè un sacco di giornali hanno chiuso da un lato, molte principalmente donne, ma anche uomini, sono stati caldamente invitati al prepensionamento, quindi è, come dire, era molto facile collocare lei in questa situazione. Si aspetta di diventare nuovo caporedattore perché il caporedattore attuale sta andando in pensione, lei è quella con l'anzianità più elevata, è quella che insomma è lì da più anni, gli altri sono andati, insomma tocca a lei, e invece no. Succede in tanti posti, non solo quando arrivi ai 50 anni, ma magari anche quando avevo un figlio. Quindi diciamo che è stato facile, ho usato quella professione. Elena Donati è la protagonista, e perché ho detto che si trova in un momento particolare della sua vita? Perché ha tra i 50 e i 60 anni, più vicino ai 60 direi che ai 50, e è un momento di passaggio in realtà. Chiamiamolo così. Beh, è un'età in cui accadono tante cose, sia fisiche, perché c'è il tema della menopausa, però accade anche che come dire, il nido molte volte si stia svuotando, perché adesso appunto i figli non vanno più via perché si sposano, ma perché vanno a studiare da un'altra parte, insomma, quindi la possibilità che il nido si svuoti è molto frequente, e col nido che si svuota Elena comincia a pensare che lì nel nido rimangono in due che si sono scelti, ma 30 anni prima. Quindi nel frattempo si sono scelti, si sono amati, si sono desiderati, però cosa è successo nel frattempo, in quei 20 e passa anni in cui la vita è stata assorbita dal lavoro, i figli, la casa, insomma, e i due hanno cominciato forse a rispondersi in modo automatico, no? Per cui alla fine i due forse hanno smesso, non solo perché non si vogliono bene, si vogliono bene. Assolutamente, c'è un grande affetto, un grande legame, si percepisce che c'era anche una grande complicità che forse può tornare. Esatto. Diciamo che questi anni che sono passati hanno portato un po' di abitudine, hanno cominciato a darsi l'uno per l'altro, abbastanza scontati, e quindi di fatto non si parlano più, perché è un po' quello che, non dico succede sempre, però insomma c'è un po' il rischio, no? Perché se tanto sai già come risponderà l'altro, tu dirai quello, lei risponderà così, allora fai finta, lasci perdere. Quindi mi interessava porre in una situazione in cui nessuno dei due avrebbe più potuto usare i soliti meccanismi, dove era necessario che attivassero altre risorse, e quindi sulla loro strada metto poi varie cose. Esatto. Quindi donna, questo chiamiamolo tempo di passaggio, menopausa, la forza del libro sono ovviamente la storia, ma sono soprattutto i personaggi, sono personaggi molto solidi, caratterizzati in una maniera molto efficace, che tengono in piedi la storia. Secondo me avresti potuto scrivere qualsiasi storia con questi personaggi, perché tengono molto bene. Bello. Sono fresca di lettura. Ecco, e quindi cerchiamo adesso di conoscerli un po' meglio, questi personaggi. Allora, Elena la protagonista, già, perché nella vita di Elena c'era stato pure quel cambiamento lì, la menopausa, che lei aveva affrontato senza condividerla con Ettore, non in modo esplicito, certo, qualche segnale glielo aveva mandato, come il piumone allontanato con rabbia nel cuore della notte, che per lei storicamente freddolosa era un'evidente comunicazione di terremoti ormonali che stavano rivoluzionando il suo corpo e la sua vita. Ma Ettore non aveva fatto domande. Per distrazione? Per rispetto? Elena non lo aveva mai verificato e aveva gestito quel processo in silenziosa solitudine. Forse perché parlarne lo avrebbe fatto diventare più reale? Forse. Fatto sta che quel silenzio non aveva aiutato Ettore a comprendere e non aveva nemmeno reso quelle trasformazioni del corpo e del desiderio meno reali, anzi, le aveva trasformate in una quotidiana lotta che Elena combatteva con se stessa a furia di tisane, integratori, bicchieroni di acqua bollita e limone, melatonina, CBD oil, ovuli, gel, yoga, eppure Pilates per il controllo del benedetto perineo. Un corpo a corpo reso ancora più faticoso da articoli e dibattiti nei quali si dichiarava di voler togliere il velo ipocrita sul tema della menopausa, ma che in realtà creavano narrazioni che quel velo lo cementavano. e poi c'erano le foto e le interviste ad attrici, showgirl, ex modelle e sue coetanee, che a differenza di lei, allegre squittivano di reggere quell'onda d'urto con pancia piatta e felice nonchalance, e soprattutto rivendicavano una rinnovata vita molto sesso, drog e rock and roll. Questo. Ma sì, perché secondo me, vabbè, alcune cose sulla menopausa le volevo dire, perché mi sembra che adesso su quel tema lì, allora in passato questo discorso si faceva sulla maternità. La maternità, della maternità c'era una narrazione solo rosa, cioè le tinte erano solo quelle lì. E se tu per caso, durante quell'esperienza lì, ogni tanto ti domandavi, oddio, che cosa cavolo ho fatto, comunque non ti sembrava che fosse proprio solo un periodo tutto rosa e fiori, ti sentivi un po' sbagliata. Per fortuna, creando questa roba qua, creando dei grossi problemi, per fortuna un po' quel tipo di narrazione lì è cambiata. Adesso si sa, viene detto, viene narrato che insomma la maternità è più complessa, è più come dire, luci e ombre, no? Non grigi, tanti grigi e momenti di apri, ma cioè, ecco, che pur dicendo queste cose non è che sto dicendo che la maternità è un'esperienza che non rifarei, no, assolutamente, però va fatta consapevole di e soprattutto va fatta meno in solitudine possibile, ecco. Allora, mi sembra che la stessa cosa, al contrario, avvenga sulla menopausa, ma per anni non se n'è neanche nominata. Adesso invece è il momento magico della vita di una donna, che obiettivamente anche, non è proprio vero, cioè c'ha tutte le sue difficoltà quel momento lì. Allora, negarla questa cosa qui ti fa, contribuisce a far sentirti sbagliata, e come? Cioè, quel rotolino intorno alla pancia che ti viene, anche se respiri, perché una volta non veniva, adesso sì. Certo. Cioè, ma diciamolo, no? E invece, non è, ecco, quindi mi sono permessa di scrivere quello che pensavo usando dei toni ovviamente, come dire, non da saggio, ecco, non rientrerò mai nella, come si dice qui, nella visione saggistica, nella libreria, no, ecco, però qualcosa andava, mi piaceva dirlo, e questo l'ho detto in quel modo lì. Quindi, sindrome da nido vuoto, menopausa, la porta della redazione che quasi si chiude, insomma, questa povera Elena si trova veramente davanti. Ma non basta. Non basta, perché nella vita di Elena, oltre ai figli che sono andati via, che però ogni tanto la chiamano nel cuore della notte per chiederle le cose più assurde, perché per loro ovviamente gli orari della giornata sono un po' diversi. Certo. Ecco. Oltre a questi, la vita di Elena è pervasa da una presenza in mano, una presenza, la madre, la mamma Margherita. La mamma Margherita. Raccontaci, sì, chi è questa mamma Margherita, che è, diciamo, tutta madre che io vorrei essere. Che però non vorresti a fianco, magari. No, ma Margherita è una da avere come amica, non come madre, perché come madre è un caterpillar, è una che uno schiaccia sassi, cioè una che dice, non c'entra niente con la mia mamma, lo dico subito, no? Perché è una roba che mi hanno tutti chiesto, dicendo, ma la tua mamma? No, la mia mamma è proprio una mamma, non è un caterpillar, assolutamente. Questa è invece una forza della natura che, ripeto, bella da avere come amica, perché è una donna che fa i fuochi d'artificio, è una donna che ha sempre fatto quello che ha voluto, e adesso ancora di più, adesso che ha raggiunto gli 80 anni, è come se avesse, cioè qualsiasi freno inibitorio è passato, e adesso faccio e dico quello che voglio, non solo, ma faccio soprattutto quello che voglio. E infatti, la sveglia all'alba, è una che non fa parlare neanche quando telefona, la sveglia all'alba per annunciare ad Elena che ho deciso, lo lascio, non ne posso più, non posso sprecare i miei ultimi anni di vita con uno che beve il caffè facendo il risucchio, ho retto abbastanza, vieni ad aiutarmi con il trasloco? Ore 6 della mattina. Sono le 6:30 del mattino ed essere svegliata da un insistente e potente squillo di tromba dopo essere riuscita da forse un'ora a riprendere faticosamente il sonno interrotto non è assolutamente bello, anzi, è una di quelle esperienze da inserire assieme a traslochi e divorzi nella lista degli eventi da augurare solo a un nemico. Se poi la voce che ti sveglia al ritmo di un treno ad alta velocità e sfiora i decibel prodotti da un trapano pneumatico, non c'è speranza. Le fondamenta per un prossimo infarto sono costruite. Scusi, ma chi parla? Come chi parla, testina? Non mi riconosci? Sono tua madre! Non starai ancora dormendo, vero? Effettivamente poteva essere solo lei, Margherita. 80 anni portati con la grinta e la determinazione dei primi pionieri del West. Nulla l'ha mai fermata e nulla la fermerà adesso, che all'età che alcuni di noi, quando la raggiungono, considerano prateria di frontiera, terra al di fuori di qualsiasi legge, umana o divina che sia. Elena aveva sempre saputo che per sfuggire a quella furia umana, che non conosceva altro modo di vivere la vita se non cavalcandola al galoppo, avrebbe dovuto tentare di costruirsi un'esistenza altrove. Terra del Fuoco, Nuova Zelanda o Groenlandia, insomma molto, molto altrove. Ma l'amore, il lavoro e soprattutto la consapevolezza che forse solo Marte le avrebbe assicurato un altrove sufficientemente altrove, l'avevano portata ad esistere. Oltretutto Elena è figlia unica e quel legame, quella responsabilità lì, passata l'adolescenza, si erano fatti sentire con tutto il bagaglio di sensi di colpa che nemmeno anni di analisi erano riusciti a scalfire. Sono le 6:30, mamma. Ovvio che dormo. Te l'ho sempre detto che il mattino l'ho in bocca, ma tu niente, mai che mi dai retta, crapuna. Per questo sei ancora lì a servizio. Mamma, non sono a servizio, sono capo servizio della cronaca. Oh, complimenti vivissimi. Sono quasi 30 anni che sei lì occupati di gatti smarriti e incidenti stradali. L'idea che Margherita ha del giornalismo è incarnata solo da un nome, Oriana Fallaci. Tutto il resto per lei è noia. Ecco, questa è Margherita. Questa è Margherita e quindi a Elena Donati quella mattina piomba addosso anche questa cosa qua, questa notizia che la madre ha deciso di mollare il marito anni 80 e di trasferirsi dalle sue amiche, cioè le sorelle Giuffrida. Le sorelle Giuffrida che nella visione, appunto, sono due sorelle che Margherita conosce, che ha conosciuto ai tempi alle famose Marcelline elementari, per cui si frequentano un sacco di tempo, e sono poi rimaste in contatto, e loro sì che la sanno lunga, non si sono mai sposate, questo è quello che dice Margherita ovviamente, e quindi dice basta, sono 80 anni, ho dato quel che c'era da dare, adesso voglio occuparmi di me, vado a vivere dalle mie amiche, per così possiamo vedere e fare quello che vogliamo, quindi vederci le nostre serie, crime, ma anche Downton Abbey, tutto quel mondo, libri, Bridgerton, certo, e poi giocare a burraco fino a tanta ora senza dovermi occupare, fare la cena, questo e quell'altro, e poi riballare il tango. Gritando, dice sì, perché le tre ragazze che si ostinano a chiamarsi ragazze nonostante siano appunto degli ottantenni, da mesi stanno prendendo lezioni di tango, perché c'è un maestro argentino che una volta a settimana va lì e gli insegna a ballare il tango. E quindi, come dire, Elena si ritrova a dover gestire anche questa cosa qua, un po' perché questa madre pretende di essere presa seduta stante e portata alle sorelle Giuffrida, ma anche perché ovviamente Mario, che è il marito, rimane un po' sbalestrato, perché anni 80 trovarsi da un momento all'altro mollati così non è proprio facile, no? Soprattutto se, questo è Mario, ha scelto una donna, si è innamorato di quella donna lì perché era un vulcano, e quindi per tutti quegli 60 anni lui ha camminato rasente i muri, la sua vita gliel'ha fatta lei, no? Gliel'ha organizzata lei, cioè molto comodo tutto sommato, però se poi questa cosa sparisce, no? Rimane un attimo senza fiato, però, fa una gran tenerezza. Ma poi sì, però tu hai detto che è un romanzo di personaggi, è vero, però dicevo prima anche, per me è un romanzo sul tempo che passa e sulle relazioni, come cambiano anche nel tempo, no? Perché poi per Mario questa cosa qui alla fine, poi dopo il primo momento di sbandamento, sarà anche un'opportunità. spesso, no, c'è un'altra faccia della medaglia. Quindi. Esatto, che non si riesce a intravedere subito, ma magari invece con attenzione, con, anche con un po' di fortuna. Ecco. Quindi avrà delle possibilità che prima gli erano precluse con questa moglie ingombrante, diciamo. E, mentre il marito di Elena, lei è impegnata in mille cose, lavoro, figli, madre, insomma, ovunque, quindi ovunque c'è questa presenza della mamma, il terrore che squilla il cellulare da un momento all'altro, eccetera. Suo marito invece, Ettore, bello, solido, tranquillo, meticoloso, abitudinario, sì. Professore universitario. Per noi giusto. Però fa tenerezza anche lui. Quindi due personaggi assolutamente all'opposto, un po' come, sto ragionando adesso, un po' come Margherita e Mario in un certo senso. Beh, perché gli opposti Mario. Poi. Sì, esatto. Tocca alzarsi. Il bagno è occupato da Ettore, che, svegliato non tanto dallo squillo del cellulare di Elena quanto dal volume della voce di Margherita, che senza alcuno sforzo era riuscito ad arrivare fino a lui, borbottando si era alzato dal letto, costretto a iniziare la sua giornata con almeno mezz'ora di anticipo rispetto a quanto aveva previsto. Spazzola di crin su tutto il corpo, poi doccia calda fredda per stimolare la circolazione, shampoo contro la caduta dei capelli, barba rigorosamente fatta con schiuma e pennello, crema corpo energizzante, controllo ed eventuale eliminazione della peluria che da qualche anno aveva iniziato a palesarsi nelle narici e nelle orecchie. Primo lavaggio dei denti, il secondo dopo colazione. Un percorso spa che negli anni era diventato una vera e propria routine, che amava sbrigare indisturbato. Anche perché per lui parlare di primo mattino era sempre stato un problema, figurarsi dopo una notte disturbata come quella. Ettore è il marito, è un professore universitario, il primo detto noioso, non è vero, non è noioso, è che ha altri ritmi, altri modi, altri tempi rispetto ad Elena. Lui, nel corso degli anni ha cercato di farsi un po' più di nebbia rispetto a Elena, ha lasciato un po' il campo, ha lasciato che risolvesse lei le cose. Certo, c'era un po' questo rumore sottofondo e lui faceva un po', si annuiva, magari cercando sempre di annuire i momenti giusti, perché poi sennò veniva beccato e fregato. Però insomma, non è un uomo cattivo, semplicemente ha dei tempi diversi. Tempi diversi. Sì, si è un po', cioè, le sue letture, i suoi libri, la sua bicicletta, sogna di, lui quest'idea di andare in pensione va a tirare abbastanza, sogna di andare a vivere in campagna, di coltivare l'orto, anche se non è assolutamente capace di farlo, anzi fa dei grandi danni. Insomma, per lui questa evoluzione dell'età non la sta sentendo in modo così pesante, no? Però dalla sua Ettore ha la grande capacità di farsi poi invece trascinare, no? Esattamente. E quindi coinvolgere. Questo dicevo, la complicità che comunque può tornare. Sì, no? Sì, ma infatti io di fatto questa coppia la volevo salvare, e quindi però volevo capire come. Quindi sulla loro strada ho messo un cadavere fatto a pezzi. Ora non è detto che le relazioni si debbano salvare sempre con un cadavere. Però ecco, nella fiction questo si può fare. Chiuso in un trolley, abbandonato su marciapiede, esatto. Che c'è scritto, possiamo dirlo. Certo. Diciamo che quella cosa là, quella scoperta che bloccherebbe chiunque, cioè io ecco, spero di non crociarlo mai nella mia vita, un trolley con dentro un cadavere fatto a pezzi, se non nei libri, quella cosa lì mette in moto un'indagine, un gioco nel quale vengono, Elena riesce a coinvolgere anche lui e vengono messi in atto comportamenti, reazioni, armi che insomma non c'erano prima e forse si ritrovano. Sandra, hai detto giustamente il tempo che passa, un romanzo sul tempo che passa, in effetti tutta la loro vita di coppia hanno frequentato amici, magari anche gli stessi per anni, le cene, le risate, i giochi, le vacanze, eccetera. A un certo punto anche questo mondo cambia, perché anche la vita di questi amici cambia. Ci sono delle separazioni, ci sono delle crisi, e quindi anche questo destabilizza poi, arrivati a questa età, perché comunque sono cose che succedono, no? Coppie che scoppiano, bisogna anche lì capire da che parte stare, se ha senso stare da una parte o dall'altra. Comunque cambia la geografia, diciamo, no? Cambia la geografia delle relazioni familiari, perché i figli si spostano, e cambiano anche la geografia delle relazioni amicali, perché accadono delle separazioni intorno. Quindi da un lato c'è questa cosa per cui Elena comincia a pensare di essere, come dire, l'ultimo dei moicani, dice, mo arriva anche a me, perché il cerchio si stringe, si stanno separando tutti questi amici storici, no? Con i quali ha diviso dall'università la vita, quindi con i quali hanno i figli più o meno coetanei, quindi hanno fatto vacanze, cioè hanno condiviso tanto, improvvisamente, poi non è mai improvvisamente, comunque dopo 20 anni queste due coppie si sfaldano, e Elena si ritrova anche a dover fare i conti con i nuovi compagni, anche questi loro amici storici hanno, e quindi Elena vorrebbe che tutto ricadesse nello stereotipo, cioè lo stereotipo della crisi tra i 50 e i 60 anni dell'uomo che inevitabilmente sceglie una donna che ha la metà dei suoi anni, perché questo sarebbe un po' rassicurante, e invece no, invece scopre che no, guarda te, in quel caso c'è. A volte non è così. A volte non è così. Poi vorrebbe che, cioè, l'altra cosa che vorrebbe è individuare in questi compagni belli e giovani almeno, non so, che gli puzzasse la scella, cioè una roba no, che. No, sono perfetti. Hai capito? Invece no, no, invece no, sono anche un po' intelligenti. Quindi diventa faticoso, no? Lei fa fatica a tenere assieme questa cosa. Ecco. E infatti, dopo questa serata di incontro con i nuovi compagni, che avvengono anche discorsi ai quali Elena magari non è neanche abituata, perché c'è un divario generazionale anche, sì. Insomma, quindi anche serate forse un po' imbarazzanti, un po' diverse dal solito. Quella in particolare. Quella in particolare, esatto. E adesso avrei piacere, Sandra, che leggessi tu questo brano. Va bene, dimmi da dove. Capito. Ah, tutto. Allora, quindi siamo al post serata, quindi c'è stata questa cena in cui Elena ha incontrato i nuovi compagni, quindi è stata una serata un po' in salita, diciamo. Poi si ritrova a letto, va a letto, e ovviamente c'è questo schema che si ripresenta sempre, lei che vorrebbe parlare e lui con il suo bel libro. A letto lo schema è quello di sempre: Ettore immerso nella sua sacra lettura serale, Elena che parla tra sé e sé. Negli anni Ettore ha capito che a Elena basta ricevere di tanto in tanto un segnale di assenso. Elena ormai sa che ciò che lei racconta non riuscirà a raggiungere la coscienza di Ettore, o meglio, la raggiungerà in modo parziale, ma va bene così. A lei quel riepilogo serale della giornata appena terminata e il reminder di ciò che l'indomani dovrà fare servono per calare il sipario. Questa sera però è diversa, la sua è stata una giornata molto difficile e la cena non è stata da meno, quindi ha bisogno di ragguagliare Ettore sull'improvvisa decisione di Margherita e sulle conseguenze che questa potrà avere sulla vita e l'equilibrio emotivo del padre. Deve anche riuscire a parlargli del disastro che è stata la riunione in redazione, del baratro nel quale sembra essere precipitata la sua vita professionale, della partenza di Claudia è l'amica storica, per le Maldive. Vorrebbe anche stimolare un qualche riscontro sulla serata. Aspirerebbe a capire cosa ne pensa lui dei nuovi compagni di Roberto e Stefano. Le piacerebbe confidargli i suoi pensieri, le sensazioni così contrastanti che le ha mosso quell'incontro, e poi avrebbe bisogno di essere rassicurata. Quel vivere e non sopravvivere che lui aveva detto quando gli aveva detto ma cosa pensi di questa separazione, le rimbomba nella testa e nel cuore. Forse anche per loro è giunto il momento di percorrere strade diverse? Insomma, tanta, troppa roba, con l'ovvio risultato che Ettore farà confusione. Capisci? Va a ballare il tango a New York? Chi? Filippo, no? Ma chi è mia madre? Ma va a New York? Quando? Ma ti prego. Certo che, se te ne stai in pigiama tutto il giorno, alla fine ci sta che una si stufi, no? Ma la scarpa l'hai vista? Quale? Come quale? Quella abbandonata in corridoio, deve essere di Marco, no? Ma chi se ne frega, dai, quella è di Anita. Anita chi? Come chi? Ci abbiamo passato assieme tutta la serata, Jessica Rabbit. Ah, no, non ci ho fatto attenzione. Ma come non hai fatto a non vedere la Louboutin? Le sorelle da cui è andata tua madre sono passate da casa? No, signor, come hai detto che si chiamano? Giuffrida, le amiche di mia madre. La Louboutin, le scarpe, le riconosci per la suola rossa, costano un botto e poi sono così lontane dal gusto di Stefano, no? Beh, effettivamente non ce lo vedo con delle scarpe rosse. Ma non lui, dai, non hai visto il tacco modello d'urso che sfoggia a Vanita? No, non mi sembra che di cognome faccia d'urso. Vabbè, lasciamo perdere. Elena seccata spegne la luce sul suo comodino mentre Ettore continua a leggere. Ma Elena non ce la fa. Ha bisogno di Ettore, ha bisogno che lui intuisca il suo smarrimento senza che lei glielo debba spiegare. E riprendendo il filo dei suoi pensieri prosegue, protetta dal buio. Beh, però le Maldive potrebbe essere un'idea, no? In che senso? Un'idea per noi? Per noi? Beh sì, per noi, per chi se no? Sole, mare, magari lì potrei anche, cita le parole di Claudia, riflettere su quale forma dare alla mia esperienza ultra ventennale nella cronaca. Potrei provare a scrivere un libro, aprire un blog alle Maldive, con quello sciabordio. Abbiamo una magnifica casa in campagna, perché non andiamo a vivere lì? E qui ci sono dei versi che andrebbero cantati, che sono delle battute di Vasco Rossi e io vi risparmio. Vivere è passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo. Ettore non si accorge di quanto Elena sia desolata. Liscia le lenzuole e spegne la luce. Vivere e sperare di star meglio. E nel buio totale della camera Elena azzarda un'ultima domanda. Ma tu questa cosa del Vajatling, che non so come si legga, Vajatling, cosa ne pensi? Non sapevi, ma invece sì. Non sarà doloroso e non farà un po' effetto albero di Natale? Va già cosa? Vabbè, buonanotte, dai. Spieghiamo che è un tipo di ceretta con dei brillantini, una cosa così. È un ceretta, certo, cioè, se nessuno fa finta, lo sappiamo, tutti sanno. tutte siamo andate ieri. Cioè anche quello è cambiato, anche di quello parlo nel libro, che una volta c'era la ceretta, cioè uno tipo di ceretta, si spalmava, mezza gamba, una gamba intera, che sembra. Adesso c'è un menù lunghissimo di vario tipo, che va dal filo interdentale al... No, interessante anche quello. Di questo hanno parlato ovviamente durante la cena, perché... Cioè, ecco, l'altro tema secondo me è un po' il tempo e l'incontro, le relazioni anche tra generazioni, che è l'altra cosa che a me interessa in realtà, mi incuriosisce, mi piace, mi diverte, sono problematiche, ma credo che dal ping pong di scambi tra generazioni diverse poi arrivi l'idea, arrivino quindi le migliori idee creative secondo me arrivano dallo scambio tra la diversità, e quindi la diversità è anche quella generazionale, e questo c'è, l'ho voluto mettere abbastanza nel libro. Sì, direi ampiamente hai colto. Volevo adesso chiudere, diciamo, altrimenti svegliamo il libro, quindi se non c'è qualcosa, dobbiamo fermarci qua, abbiamo messo degli ingredienti. No, io ti volevo fare invece una domanda un po' più tecnica. Qual è, diciamo, la tua tecnica di scrittura? Mi sono sempre chiesta, no? Come uno scrive, prende appunti quando gli vengono in mente le cose, tipo la sera prima di dormire ti metti i post-it in giro sul frigorifero, ti metti al computer, attendi che arrivi l'idea, come fai? No, allora, tutto, dai post-it agli appunti, ai memo, il mio computer è pieno di incipit, pezzetti che poi mi perdo, poi ci sono i ritagli. Diciamo che per esempio il giallo, che fa semplicemente da filo conduttore, perché se siete amanti di gialli veri, veri, veri, veri, rischiate di uscire un po' delusi, perché questo è un soft crime, cioè l'indagine è veramente condotta sopra le righe, è un libro che fa ridere tendenzialmente, no? Però ecco, il fatto che io narro è reale, è vero, l'ho rubato alla cronaca, era un fatto avvenuto un po' di anni fa, adesso non mi ricordo, almeno 8-9 anni fa. A Milano? In provincia, sì sì, coinvolgeva dei ragazzi milanesi, però era stato fatto in provincia e lui era un professore, il signore che finisce nei trolli, e mi aveva colpito per la violenza dell'atto e la superficialità, delle motivazioni che poi erano venute fuori, cioè veramente una roba che mi aveva ghiacciato l'anima, e quindi non so perché me l'ero accantonato ed è tornato, quindi tutto torna in realtà. Questo libro, come è stato scritto? Io in realtà questo è il mio primo vero romanzo, perché le altre cose che ho scritto, una è stata un libro che ho scritto a quattro mani con mio marito, e quello è stato scritto però via mail, e quindi a mia mail, e c'era una pezzatura ben precisa, perché era lui rispondeva, cioè io alzavo e lui schiacciava. E poi dopo che ne abbiamo scritte un po', questa cosa è diventata una rubrica per GQ, e dopo un anno Feltrinelli ci chiamò dicendo: ma perché non la facciamo diventare un libro? E allora abbiamo costruito, per cui il processo è stato completamente diverso. L'altro, in realtà, che si intitola Stress in the City, è la raccolta di una parte di racconti che avevo scritto di fiction per Repubblica, pagine milanesi, in cui racconto della città, dei fatti che avvengono in città, però con dei personaggi, quindi era stato molto coraggioso quel caporedattore, perché mettere su un quotidiano, oggi è una cosa più comune, però insomma 10 anni fa, dei pezzi di fiction non era così scontato. Questo qui invece nasce grazie al lockdown, mi verrebbe da dire, perché nasce prima, ma nasce come trattamento, che è un punto di passaggio tra il soggetto e la sceneggiatura di un film. Il soggetto di solito è di poche pagine, la sceneggiatura invece sono tutti dialoghi, e il trattamento è un riassuntone. In questo caso io ho scritto questa cosa di cui non sapevo bene cosa ne sarei fatta, però era insomma 50-60 pagine. L'avevo dato poi a quel punto a Claudio da leggere, e arrivato in fondo lui mi aveva suggerito di farlo diventare un libro, perché diceva: ma qui ci sono dei personaggi che se nella scrittura possono fiorire. E ha avuto ragione, quindi diamo a Ettore. Scherzo. Ecco, quindi è stato dopodiché c'è stato il lockdown, che a Milano dovunque è stato tremendo. A Milano è stato forse particolare, perché è una città rumorosa, molto più rumorosa di Bolzano ovviamente, dove c'è sempre traffico, dove c'è insomma, il rumore sottofondo è sempre molto forte, c'è sempre. E improvvisamente invece si è sentito solo il silenzio, questo silenzio rotto solo da ambulanze. Quindi, passato il primo momento, che poi è durato un po' di vero panico, finto panico vero, in cui non so voi, ma io pensavo stesse finendo veramente tutto, ho provato a tuffare il panico, ad anestetizzare la paura, eccetera, e a metterla nella scrittura. E questo mi ha aiutato un po', perché era un tempo sospeso, perché tutto quello che io ho sempre scritto ha sempre avuto una pezzatura molto breve, cioè il massimo 5.000 battute, una roba che tu puoi fare mentre fai dell'altro, tra un passaggio e l'altro. Invece un romanzo richiede un tempo lungo, non interrotto, e quello è stato un tempo sospeso per tutti, e quindi a me ha concesso di farlo. Ecco. Tornando ai personaggi, poi magari chiediamo se c'è anche qualche domanda, qualcuno che vuole intervenire dal pubblico. Ultima domanda che ti faccio: come scegli i nomi e i cognomi? Perché Elena, Ettore, Anna e Marco, penso che chiunque pensi a Lucio Dalla, però i cognomi, cioè Elena Donati, lo psicoterapeuta che si chiama Palunghi, Carlo Bazzo, Giorgio Scotti, Gatti, giornalista Mangiarotti, il poliziotto timido si chiama Panzini. Allora, alcuni nomi sono reali. Ok, abbiamo svelato. sì. Infatti è buffo perché, per esempio, Panzini è un professore timido italiano. Io lo vedo così, non è stato mio professore italiano, è stato un professore di italiano di mio marito e di suoi amici, di cui ho sentito parlare tantissimo, e quindi quando poi mi sono trovata la scrittura ho detto ciao, mettiamo dentro i Panzini. E, per cui poi alcuni nomi, no, per esempio Elena Ettore, sì, lì mi sono divertita a giocare ovviamente, perché la Elena che noi conosciamo non è l'Elena che, come dire, si metterebbe a indagare su due trolle con dentro un uomo fatto a pezzi, e Ettore obiettivamente non è un professore universitario nella narrazione, no? Che noi conosciamo. Quindi mi sono divertita a invertire la personalità di quei personaggi, però andando a pescare un po' nell'immaginario che è in tutti noi. Anna e Marco, citazione di Dalla, e Vasco Rossi che pervade il libro, no? È cioè troppissimo, ognuno ha un debole, un difetto, quello è il mio, quindi a me piace. E quindi citazioni ad hoc, sì, proprio. Sì. L'ho buttato dentro parecchio, sì. Sì. Ecco, domande non ci sono mai. No, ma adesso ce ne sarà qualcuna ci sarà. Ah, vedi, invece, guarda che Bolzano voce che sorprende. Io non so, io ho una domanda, in realtà ne avrei due, ma ne faccio solo una, prendere tempo agli altri. E qual è il suo rapporto con Bolzano? Visto che lei è di Bolzano, ha detto, ed è andata via da Bolzano, non so quando esattamente. Io sono andata, io sono nata e cresciuta qui, sono andata via terminate le superiori. Perché lei ha citato le Marceline, quindi. Beh, ma esistono anche in altre città. Non erano le Marceline, non ho fatto le Marceline. E quindi scusi, com'è il suo rapporto con. Penso che ce ne sia ancora uno. No, io qui ho la mia mamma, mio fratello, i miei nipoti, cioè io. Per cui insomma non è una città che magari riesco a frequentare, alcune amicizie che sono rimaste, poche, perché non è facile mantenere i rapporti comunque per tanti anni, no? Prego? E quindi è un rapporto forte per quel che mi riguarda. Dopodiché è vero, io a questo punto ho più vissuto a Milano che a Bolzano, perché sono andata via dopo 19 anni. Però è vero che continuo e sono felice io di vivere a Milano, perché è una città comunque che mi corrisponde. Quando sono arrivata non avrei mai pensato di fermarmi lì a vivere, perché la trovavo brutta. Oggi la trovo bella, è una città che invece amo molto. Però Bolzano da un lato rappresenta le mie radici, e lo scopro, io ancora non riesco a parcheggiare come parcheggiano i milanesi, perché sono tipo, non ce n'è, quella roba non riesco a toglierla fino in fondo, quindi riesco a fare sì dei parcheggi che qui a Bolzano oggi vengono visti come molto azzardati, ma non sono all'acqua del cielo. Quindi ci sono tante cose che sono mie di questa città, e poi ci sono, ho dei pezzi di famiglia che sono di lingua tedesca, per cui comunque è un'identità che difendo, anche nella sua complessità, nelle sue contraddizioni, che questa città, questa regione, questa provincia, la difendo molto quando ne parlo con persone che non sono di qua, litigo molto con le persone che sono di qua, come sempre, no? Con gli amori veri ci sia molto più duri di quanto sia con gli altri, però sì, è un legame forte. Sono contenta di essere nata e cresciuta qua. Credo che il fatto di aver avuto intorno le montagne, di avere le montagne, non solo intanto faccia venire voglia di spostarsi e di vedere cosa c'è al di là di quelle montagne, mentre invece nella pianura è più difficile lasciare la pianura, perché ti sembra di aver già tutto a portata di mano. Ecco, non so se ho risposto. Sì, sì, benissimo, okay. Grazie. Prego. Basta. No. Grazie, io voglio... non so, magari invece c'è qualcun altro. Non mi alzate niente. Allora, quando torni invece da Milano, come la rivedi Bolzano dopo anni? Nel senso che noi siamo immersi in questa città da sempre, o più o meno, insomma, adesso dico da sempre, ma comunque, quando ci vivi non hai a volte la giusta distanza, no? Il giudizio. Beh, la trovo per tanti versi molto cambiata, perché comunque io quando ero qua non c'era l'università, e anzi l'università era un tabù di cui non si poteva parlare, non si poteva neanche prevedere che ci potesse essere, quindi da questo punto di vista la trovo cambiata, mi sembra più vivace di quanto fosse quando vivevo io qui. Poi sto pensando, perché la trovo sì, per certi versi cambiata in meglio, è diventata anche più bella sicuramente, ma no, è una città molto... Guarda come piove fuori adesso, presentazione bagnata, presentazione fortunata, dicono, ma speriamo. Quindi la trovo sicuramente più bella. Ecco, mi stupiscono ancora alcune cose, tipo mia nipote che ha 20 anni e che ha fatto le scuole, dunque lei ha fatto una sezione sperimentale che continua ad essere sperimentale, questo che io trovo proprio assurdo, in cui appunto c'è delle materie in italiano e alcune materie in tedesco. Ecco, questo, e magari dico una cosa che non va detta, che è assolutamente gravissima, però penso che dovrebbero essere tutte così le scuole. Ecco, personalmente, questo, credo che questa terra potrebbe produrre risultati eccezionale, migliore di quelli che già produce. Ci vedi ancora un po' arroccati. Poi io non ci vivo questo, quindi perché... sì, penso che poi il mondo in realtà sta andando in questa direzione, quindi mi sembra che l'attuale ci stia anticipando purtroppo movimenti di arroccamento, che però ecco, la mia speranza è che il mondo andasse in un'altra direzione, non in questa che sta prendendo, quindi e questo è per certi versi un buon laboratorio, no? Quindi però ecco, osare un po' di più potrebbe essere non male, dal mio punto di vista, poi non vivo qui da tanto tempo, quindi non lo so. Ecco, prego. Tornando al libro, certo, e al tema delle relazioni che lei ha voluto curare, dal suo libro che cosa emerge che può favorire oppure ostacolare le relazioni? Quanto tempo abbiamo? No? È tosta, la risposta. Cioè adesso. No, certo. E che cosa può favorire? Che cosa? Beh, credo. Allora, la leggerezza. Quello secondo me un po' favorisce. Io ho imparato a diventare leggera perché. Di natura non lo sono, anzi c'ho un peso specifico bello faticosetta, quindi credo che però invece con la leggerezza possa aiutare, non risolve, però diciamo che osservare l'altro, la realtà anche con un po' di... come puoi dire, aiutatemi perché mi manca la parola, cialla, ecco, può aiutare, oltre ovviamente alla tolleranza infinita, è un rispetto dell'altro, però insomma, questo, risposto? C'era un'altra mano, eccola, la nostra host. Fuori dall'autore. Perché a volte mi sembra che mettiamo un'immagine più curata attraverso la televisione, con dei sceneggiati, insomma, che continuano e perpetuano, no? Un'immagine molto folcloristica, se vogliamo, o comunque molto estetizzata. arriva qualcosa? Cioè, ci sono queste narrazioni che vengono risolte? Quando io dicevo prima che magari appunto difendo comunque. No, beh, io ho un sacco di amici che vengono in vacanza qui ovviamente, no? Perché viene riconosciuto all'Alto Adige, giustamente, una capacità di un rispetto per l'ambiente, cioè è innegabile questo, no? Nessuno può negarlo che c'è una qualità dell'ospitalità che è meglio alta, che rispetto alla media italiana è estremamente alta, no? Quindi il rapporto costo e servizio qui è elevato rispetto ad altri posti in Italia. Quindi poi ecco, quando dico che discuto è perché magari alcuni tornano dicono, però parlo solo tedesco. E allora tu dici sì, ma guarda che quindi, cioè, c'è tutta una storia, c'è un percorso, c'è delle robe, e quindi cominci a raccontarlo. Non c'è una percezione, cioè non c'è una conoscenza così approfondita della storia dell'Alto Adige, di quello che è successo e come è stato, quali sono le problemi, quello no. C'è sicuramente questa percezione di posto molto bello, molto curato, con alcuni luoghi più accoglienti di altri, perché ci sono all'interno dell'Alto Adige alcune zone, no, che vengono riconosciute come più aperte, altre un po' più chiuse. E, non lo so, tu dici di film, cosa Adige, certo. Uno sceneggiato che ha portato in audio, sì, ok. No, io quello che, per esempio, beh, ci sono stati i libri della Gruber che hanno raccontato molto, e poi c'è stato questo libro molto bello che io ho preso e regalato in giro, che Eva racconta. Eva dorme, Eva racconta, Eva racconta, sbagliare anch'io, no? E della Melandri, giusto? E quello anche a me era piaciuto molto, e lì mi sono domandata come è stato, cioè è servita una persona non altoatesina per scrivere una storia così, e lì mi sono interrogata tanto sul fatto che comunque, cioè, è sicuramente una persona che conosce l'Alto Adige perché l'ha frequentato tanto, la Val Gardena, eccetera, però ha la giusta distanza, secondo me, cosa che per esempio io sento di non avere, proprio perché nonostante io viva via ormai quasi da 40 anni, perché io faccio 58 anni quest'anno, ho 19, sono presto fai conti fatti, quindi non ho ancora la giusta distanza, io sono emozionatissima ad essere qua, cioè per me non è una presentazione qualsiasi questa, per cui per me Bolzano è Bolzano, e invece per fare quel tipo di narrazione, forse narrare l'Alto Adige, forse serve una distanza, forse. Grazie. Prego. No, volevo dire anch'io che io sono arrivata a Bolzano 6 anni e sono vissuta fino al 94, poi sono ritornata dopo 25 anni e chiaramente ci sono dei cambiamenti, però io Bolzano l'ho conosciuta attraverso i libri della Melandri, cioè tutte le storie, certo, tutti i problemi che ci sono stati non li ho conosciuti frequentando la scuola, ed è questo, io ritengo che sia estremamente sbagliato. Ma lei ha fatto la scuola qua? Io ho fatto la scuola qua. Nessuno ci ha mai raccontato, beh, vabbè che ci fermavamo alla prima guerra mondiale. Beh, quello è il problema. Però ho vissuto gli anni delle bombe, difatti se viaggiavo andavo all'università mi dicevano, ma tu la capivi dove ci sono le bombe? Cioè, non è proprio così, voglio dire, ci sono dei problemi. Però averlo capito attraverso un'altra persona che appunto non viveva qua, mi è dispiaciuto. Però succede spesso, succede spesso che poi la narrazione del luogo avvengono da chi non appartiene a quello. Ma perché serve una distanza, cioè, per raccontare le cose? Non, credo, nel momento in cui ci sei dentro diventa cronaca e non è solo la narrazione, no? Nella Bergamasca sicuramente sono tornata indietro molto volentieri, la Bergamasca è un'altra cosa, certo. E no, ma è una situazione privilegiata questa regione, questa provincia. Sì, però assomiglia molto anche alle altre città, perché ci sono comunque anche qui dei profughi, ci sono, cioè, i problemi che sono all'esterno sono andati di qui, certo. Cioè, ci sono altre due. Però non l'avevo vista. Da chi iniziamo? La signora qua. Una domanda. Sì. Tornando all'argomento del libro, sì. Perché hai scelto, magari che si tratta di questo suo mondo, e sceglieva di fare il tango? Perché il tango? Argentina. Wow! Perché allora, perché ho scelto, non ballo il tango, però è un ballo che mi piace tantissimo. La prima volta che ho visto ballare una coppia, mia mamma se lo ricorda bene perché c'era anche lei, sono diventata rossa. Perché ecco, veramente mi è sembrato di osservare quella coppia dal buco della serratura, da tanto quei due corpi erano una cosa sola. Non hai fatto le Marcelline, diciamo. No, cos'è questa roba? Ho una serie di amici che ballano, che poi ho conosciuto un po' di persone che ballano il tango, e poi per scrivere il libro sono andata più volte, cioè a Milano c'è questo appunto Circolo Arci, la bellezza, che è stato il primo Circolo Arci che ha aperto lo spazio al tango, e prima erano quattro gatti, adesso bisogna fare la coda per entrare, perché è un ballo che è... E la cosa... Scusa se interrompo, la cantina ha questa energia? Anche per strada, certo, infatti il mio sogno è di andare. Ma lei lo balla? No, io no. E allora? Ho un problema con questo. Non è facile. Non è facile. E poi c'è. Mi è piaciuto, però per motivi esterni, non per me. Okay. Poi c'è tutto un codice di comportamento, non è che uno entra in una, balera, non si chiamano balere, si chiama milonga, ecco, assolutamente c'è tutto un movimento, poi no, ma quando sono andata alla milonga a vederli, la cosa che colpisce, che continua a colpirmi, allora mi corregga ovviamente, sì, certo. Praticamente c'è la tanda, giusto? Ogni passo. È una tanda, quindi è composta da tre balli, uno è il tango, il vals, il terzo non mi ricordo, milonga, bravo. Quindi sono tre sfumature diverse, di modo la faccio semplice, di tango. Allora, le coppie si formano per quella tanda, poi dopo, e sono appiccicati, dice, ma questi qua, cioè, ma sono assieme da una vita, cioè, no, sono coppie. Con uno sguardo intenso si forma la coppia. Sì, dopodiché si coppia, stanno assieme quella tanda, e tu dici... Avvinghiati. Ma sì, questi sono proprio una... Ah, saluto mia tanda. 9 giorni e mezzo, altro che 9 giorni e mezzo. Sì, e si mettono un'altra e tu dici, no, ed è una roba che nella vita no, è difficile, no? Perché e lì invece è legale. Bello, no? Se ci sono altre domande, no. Vedo da qua la nostra ospite. Ah, no, qui in prima fila. Fila. Prego. Allora, bellissimo, complimenti, e eccezionale. Lei l'ha letto? Io l'ho letto, no, non l'ho letto, l'ho sentito adesso, sono stato invitato, e vedere la sensazione da parte dell'uomo, perché io lo vedo dalla parte dell'uomo, da Ettore, e questi scorci di vita e di trasformazione della donna che coinvolgono in parte l'uomo, ma non riescono a trascinarlo come riescono, è bellissimo. Scritto benissimo, i miei compiti. Beh, no, ma deve leggerlo subito. Il prossimo che l'avrai detto, e non farò solo questo, lo leggerò in coppia. Ah, che bravo. Poi mi dice. Un'altra cosa, che la domanda che era. Sì. Dopo questo libro c'è nell'aria l'idea di un altro? Sì. Sì. Nel senso che non era nata così la cosa. E non l'avevo pensato assolutamente come potenziale serie, e invece mi da un lato l'editore me l'ha chiesto e dall'altro, arrivata alla fine, ho pensato che anch'io questi personaggi qui mi piacerebbe ancora ritrovarli per un po' e vedere che cosa mi raccontano, cosa fanno, cosa combinano, perché alla fine uno si domanda, vabbè, adesso però cosa succede, no? E quindi sì, ci siamo. Sì, sì. Grazie. C'è un'altra domanda? C'è un altro? Ho visto che un uomo è stato un altro. Due, cavolo, adesso osiamo, vai. No, ma guardate che poi gli uomini adesso iniziano maluccio nel libro, perché no, si riprendono. Ma poi si riprendono con la meraviglia. Infatti, questa era la mia domanda. Sì, sì, sì, no, no. No. C'è qualcosa anche del marito dentro. Ah, di mio marito? Sì, tra le righe. Caratteriale, allora, cosa che magari nessuno conosce, nessuno. E beh, cioè, la domanda la domanda è: si addormenta in un nanosecondo mentre tu stai ancora parlando? Questa è la domanda. Che sarebbe quello che ci succede normalmente. Certo. Allora, come dicevo prima a una signora prima che mi intervistava, io non riesco a scrivere di fantascienza, cioè proprio non riesco a inventare mondi, c'è chi è capace e riesce anche ad anticipare, anticipato anche cose che poi sono successe, no? Scrivendo di fantascienza. Quindi inevitabilmente io pesco dalla realtà, dalla mia realtà, dalla vita che vivo e dalla mia esperienza, dall'esperienza degli altri, quindi c'è dentro un po' di tutto, c'è dentro anche Bisio da qualche parte, ora che io le venga a dire proprio esattamente dove. Allora, concludendo, cioè, c'era una battuta, no. Ah. Non nel trattamento anticalvizie. Prego? Non nel trattamento anticalvizie, no, perché sarebbe andato malissimo. Allora, leggendo il libro con questi personaggi così forti, così caratterizzati, così simpatici, a me è sembrato di conoscere Sandra già dalle prime pagine, quindi dico solo che quando ci siamo messaggiate, semplicemente ciao Sandra, ci sentiamo, ci vediamo un attimo prima, ne parliamo, eccetera, poi ho scritto, lo sai vero che l'onomastico, anch'io Alessandro, lo sai vero che l'onomastico è il 20 marzo, perché in genere c'è Santa Claudia e tutti si ricordano di quella... faccio invio, ho detto ma che cavolata ho scritto, cioè non ci conosciamo, ecco, per dire come è arrivato il libro, no? Cioè arriva direttamente, quindi sembra di conoscerti già dalle prime pagine. Quindi. Perché comunque io sono Elena, giusto? Cioè, sicuramente, Elena Donati. No, ma inevitabilmente c'è dentro, ci sono spalmata anch'io, però ripeto, anche in Margherita ci sono io, Nel senso che lei è l'ottantenne che io vorrei essere da un lato, perché avere quell'energia lì e quella curiosità lì e quella forza lì, io... Poi le amiche di mia mamma sono quasi peggio, le margherite. Delle sorelle Giuffrida. Di energia, no, scherzo, sono assolutamente... Ho rubato anche loro, che fare l'acquarello, e vanno a camminare in montagna, e poi fanno nuoto e acquagino, e poi il burraco, e poi questo dici, vabbè, insomma... Ecco, però poi insomma. Chiudendo un tema che non abbiamo toccato, ma che rientra anche nel libro, è anche la trasformazione nel campo dell'informazione. Abbiamo già solo anticipato, sì, certo, appunto, che lei si trova alla porta chiusa, e quindi questo argomento, questo tema messo in una maniera quasi tragicomica, insomma, però fa pensare con il classico mondo dell'informazione con l'approfondimento, con un'etica, un codice di comportamento che viene soppiantato da giovani rampanti, tutti con le nuove tecnologie che buttano in pasto il video e ogni cosa, ecco. Quindi anche ci sono temi che comunque inducono anche una riflessione, è da ridere, è da sorridere, ma fa anche pensare. Okay. Quindi con questo grazie a Salvatore.